24 mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Yes, there were times I'm sure you knew when I fit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Dobbiamo innalzare Forza Italia sopra del 20%. Perché in questo modo, con un 20% di Forza Italia sommato al 21-22% della Lega e dei Fratelli d'Italia, noi potremo vincere al primo turno le prossime elezioni. So amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Se sapessimo parlare anche alla piazza di internet come non abbiamo saputo fare, ed è comprensibile perché io vengo due generazioni prima di internet, adesso sto studiando, sono la terza lezione su 10 di internet. Io internet non ce l'ho in simpatia, naturalmente. Poi in privato qualcuno racconterò qualche episodio. Comunque adesso me la devo far piacere. Parleremo agli italiani e ai giovani soprattutto attraverso internet. Dai che ce la fai, Silvione! Attaccare! E dai, sei la terza lezione su 10. Sono la terza lezione su 10 per imparare internet. Vedi, in 10 impara come imparare internet. E poi non vuol dire nulla. Come imparare internet in 10 lezioni. Di Silvio Berlusconi. Scriverà un libricino poi, che manderà in milioni di copie ovviamente a tutti gli italiani, eh? Allora, cari italiani, è lunedì! Sono le 6:32 minuti, ma la settimana è finita bene, bene, molto bene, molto bene. Bacca si accentra, Bacca, parte il tiro, rete, per bellissimo, Bacca, parte molto bene. Che bellissimo, è vero? Bello, bello. Boateng, rete! Sono tornate Boateng, le capriole di Boateng. Mamma mia, è tornata Melissa Satta. Marione Adinolfi canta con noi. È la squadra più forte del mondo e non la cambio neanche per solo. Dai, Marione! Dai, tu che senza solo vince il recupero col Torino, siete stessi dietro il Sassuolo. Sempre è un bel risultato. No, è un bel risultato. Non è possibile. È una grande stagione. Dammi la gazzetta, non è possibile. E guarda, come dietro il Sassuolo, fammi vedere. Beh, no, devono giocare il recupero, però se col Torino non vincono, non devi dire dietro. Capito? Siamo dietro alla Juve di 10 punti. Vabbè, vi prendiamo poco alla volta. Vi vedo lì proprio, siete informissima. Palotelli l'ho visto forte, bei capelli. Hai visto, sono tornate le capriole di Boateng. Ma Boateng, l'ha fatta male, stava cadendo. È il segno dei tempi, non è più come una volta. Un po' berlusconiano. Sì, ha fatto una capriola berlusconiana. È un po' il segno così. Ha fatto gol, un tempo gli venivano le capriole tipo Oba Martins, ve lo ricordate, no? Adesso l'ha fatta e ha atterrato un po' stortignacolo, però insomma va bene, dai. Allora, 6:34 minuti, è lunedì, c'è anche il nostro grandissimo Vincino con invece un Palermo in disarmo, un disastro. Ma perché non ti candidi a fare l'allenatore del Palermo? Ma no, non ci vuole. Palermo senza allenatore vince, insomma, sì, come ha fatto la settimana scorsa. Ecco, però... noi non abbiamo bisogno di allenatore, è una cosa. Anche il presidente, bisogna dire, io Palermo senza Zampalini sarebbe anche meglio, meglio, vabbè. Allora, cari amici, io apriamo subito il Parlamento, perché qui con Lorenzo Nespoli e Peter Bescapè siamo pronti. Allora, ma lo sapete, ci sono delle cose che mi hanno colpito. Una, per esempio, è passata un po' in sordita. Sapete che cosa ha proposto il ministro delle finanze tedesco Schäuble? Ha proposto la tassa sulla tassa europea sulla benzina per aiutare i migranti, per gestire la questione dei migranti. Capito, Vincino? Beh, bella, non è male questa di Schäuble, eh? Insomma, stronzata in mano, mi sembra, non lo so, obiettivamente non... Ecco, bravo. Già abbiamo delle tasse pazzesche sulla benzina. Magari in Germania no, perché noi siamo già abituati in Italia. Quando non sanno cosa fare, mettono la tassa sulla benzina. Guarda, sono pessimista, molto pessimista. Molto pessimista. Oltre Berlusconi che deve imparare internet, c'è anche la Madia che deve imparare internet. Sì. Cioè, nell'epoca del lavoro a casa, nell'epoca delle. Questa qua va, cioè quei poveretti che stanno in lavori inutili, a perdere tempo in posti vuoti dove non ci viene nessuno. L'avete mai visto il museo delle cose italiane all'Eur? È un posto vuoto, ore e giorni che sta senza fare niente là. Ho capito, che fai? Almeno in un museo uno deve lavorare lì, come fai a farlo lavorare a casa se stai in un museo? Ma non è vero, allora in un museo sono quelli che lavorano organizzati, io lavoro a casa. Tu lavori a casa. Non posso lavorare a casa. Tu, Marione, dove lavori? Lavori a casa? Se lavori. No, in redazione a Piazza del Gesù. Ah, ecco, appunto, bene. Redazione della Croce. Redazione della Croce a Piazza del Gesù. Cioè, avete capito? E questi vogliono punire quelli che giustamente vanno via da quel posto. No, ma non so se hai capito la finezza, Vincino. Redazione della Croce in Piazza del Gesù. Cioè. Lo so, eppure io ho avuto una sera in Piazza del Gesù, sai, non ci vuole, ormai li regalano. Ma come sai, Gesù, com'è possibile? Che si regalano, non ci vuole andare nessuno. No. Sono sì, t'assicuro, è così, è un posto orribile. No, guarda, Marione, digli qualcosa. Non sono in quel palazzo, sono in quello accanto. Vabbè, ho capito, è sempre là, insomma, è c'è sempre... una chiesa, il palazzo della DC è attaccato della sede della massoneria. C'è la chiesa del Gesù. Cose pazzesche, la massoneria del Gesù sta là. Insomma, è partito. No, Marione, tu là, va bene. Tu che dici, Marione, di questa cosa di Schäuble? Non ti era arrivata. L'accisa sulla benzina non è una novità. Faccia giugesto, noi siamo tranquilli, cioè abbiamo 35, appunto. La 36esima, che fatica fa. No, ho capito. Diamo una mano pure ai migranti. Forse per i tedeschi è una novità, per noi infatti l'accoglieremmo come la 35esima accisa, infatti, sulla benzina, aumento di accisa. Paghiamo ancora i terremolati ribellici con l'accisa sulla benzina. Va bene. Comunque arriva subito un messaggio al 349-238-6666 che ad Inolfi se ne faccia una ragione, le unioni civili si faranno. Mamma mia, sempre lì. Sempre lì, ma noi facciamo una manifestazione, invito il radioascoltatore il 30 gennaio in piazza. Vedi che la data era giusta? La data era quella giusta, il 30 gennaio. La data è quella giusta. Sì, 30 gennaio. Oggi leggo dei dubbi sulla costituzionalità della legge che arrivano da Sergio Mattarella. Insomma, diciamo che qualche novità. Qualche novità c'è. È vero, Repubblica apre così. Ci sono i dubbi di Mattarella, dubbi del Quirinale, per il fatto che c'è l'equiparazione tra unione civile e matrimonio. Vincino, è inutile che sbuffi. Qua. Ma no, dai, siamo ancora là. Dai. Che vuol dire? Come dire? Siamo 20 anni che stiamo a parlare sta cosa. Lo so, guarda, non dirlo a me. L'ho detto anch'io. O si fanno stavolta o non se ne parli mai più. Il primo che parla di unioni civili, se non si fanno questa volta, gli tiro un pugno sul naso. Matrimonio e basta, tutti via. Tutti liberi, tutti liberi. Ognuno che adotti chi vuole, via. Insomma, non lo so, dobbiamo lasciare i bambini negli orfanotrofi. Vedi, Marione, basta farla fare a Vincino, ognuno adotti facile, chi vuole, chi vuole. C'è sta roba della Costituzione, diciamo che era così, però va bene. Vabbè, dai, adesso anche te la Costituzione, vuoi veramente rompere le uova nel paniere? Ancora così, insomma, tipo articoli 29 e seguenti, che ovviamente non avete letto, ma fa niente. Va bene, insomma, va bene, dai, su. La Costituzione è tutta nel 2010 che non conoscete, ma non fa niente, ma il Quirinale la conosce, per cui... Ecco, ecco, adesso Adinolfi si appella al Quirinale, si aggrappa al Quirinale. Ma, al cattolico Mattarella. Al diciamo. Cattolico Mattarella, è sempre così, Vincino, alla fine trionfano sempre i cattolici. Capito, ma noi siamo un paese laico, la rivoluzione... Laico, mica ateo, ma anche ateo, anche ateo. Ma sì, il risorgimento l'hanno fatto gli atei, ecco qua praticamente. Per 60 anni abbiamo... siamo entrati a Roma con la forza, per 50 anni com'è, scusa Marione, bubu siete entrati e bubu ancora se li sogno i bersaglieri. Vabbè, sentite qui Brunetta, allora la notizia è che Mario Adinolfi la pensa come Brunetta, che dice no al disegno di legge Cirinnà. Senti qua, sì alla regolazione dunque, ma no alla Cirinnà, per un semplice motivo: che il disegno di legge Cirinnà di fatto equipara le unioni civili alla famiglia come prevista dalla Costituzione. Eccolo lì, guarda, la pensa come Mattarella, visto? Come te, Mattarella. C'è scritto nella Costituzione, non è che io ve lo dico da un paio d'anni, ma vabbè, voi continuate, insomma, c'è scritto una cosa diversa. Vabbè, è una cosa diversa. Ma ha fatto bene questo De Giorgi, lo vogliamo sentire, di gay.it? Vincino, sai che ha fatto? Sai che ha fatto questo De Giorgi, gay.it? Ha messo l'elenco dei nomi dei senatori con le faccine, dicendo: questi sono i senatori del PD contro le unioni civili. Scrivetegli, chiedetegli un incontro. Questo ha detto. Doveva mettere le foto di quelli favorevoli? Non lo so, erano di più. No, ma infatti l'hanno accusato di lista di proscrizione. Vabbè. Vabbè, sentitelo qua, che poi voglio sentire che ne pensate. Qualcuno confonde, pensa che un piccolo sito gestito da 5 persone che parla di argomenti gay debba essere per forza militante, quindi avere strategie che sono proprie di un movimento, di un'associazione, di un partito politico. Noi facciamo informazione, quindi facciamo informazione. Era Radio Cusano Campus. Marione, che ha fatto violenza squadrista? Ho sentito anche di queste, no? Se lo fa Libero avremmo detto violenza squadrista, se lo fa gay.it invece va bene, però noi veramente si d'accordo. Le liste di proscrizione non si fanno, ci sono stati almeno 10 ma non sono liste di proscrizione, sono stati stigmatizzati, non capisco perché questa invece va esaltata. Ma perché deve essere una lista di proscrizione? Cioè, guarda, ha fatto sapere i senatori, questi senatori votano così. Google, sì. Fai la ricerca e vedi, tutte le volte sono state messe le faccine dei parlamentari contrari, è stato sempre detto lista di proscrizione. Quindi dipende dalla testata che lo fa. Ma detto da chi? Dai senatori? Certo. Se lo dicono i senatori... Se lo fa Libero, allora quella è violenza squadrista. Se lo fa gay.it è informazione. Vabbè. Vincino, che dici? Il contesto importa. Quindi Libero, dipende da dove lo fai. No, il contesto vuol dire il momento, il modo. Il contesto vuol dire la testata. Ragione, il posto dove avviene questa cosa è importante, no? In che senso? Cioè per tu dici come... È chiaro che solo fa Libero è una brutta cosa, obiettivamente. Ma perché? È così, è di per sé. No, Detto che Vincino due settimane fa mi ha concesso un'intervista che ho fatto per Libero, ovviamente, a no, Vincino stesso. No, ma Libero è un'altra cosa, le interviste tue sono uno spazio a parte, diciamo. Non... Sei veramente un delinquente. Sei un abituale, è vero. Sei un delinquente, ma è veramente il re dei paraculi. Quando ho parlato del contesto non ci avevo pensato, vedi? Il re dei paraculi è Vincito. Te lo farei fare sul Corriere io questa intervista qua. Solo che... Va bene. Il Corriere è inavvicinabile, ecco. Ormai è diventato. Vabbè, ma insomma, sono liste di proscrizione o no, Vincino? Sono liste di proscrizione quello che ha fatto questo son sito? Sono liste, come dire, sono cose così. Io non vado a internet a guardare gay.it, non lo so, tu ci vai. Vabbè, no, neanche io vado a gay.it, ma cosa c'entra? Non lo so, ho paura, ho dei siti in internet che ho paura di andare io proprio obiettivamente. Sa un po' come Berlusconi, temi un po' internet, non conosci bene internet. Però a questo punto vorrei farvi sentire, a proposito di violenze, a proposito di quello che è successo a Colonia, questa sicuramente ve la siete persa, soprattutto te Vincino te la sei persa. Carlo Panella, lo conosci Carlo Panella? Certo. Certo, militavate in lotta continua, Lo chiamavo il compagno Flap, si chiamava. Perché? Flap, non lo so, come i flap degli aerei, non l'ho capito bene. Flap. Adesso ti fa un po' arrabbiare. Carlo Panella, sulle violenze a Colonia, senti qui. Dietro Colonia c'è la dinamica del branco. Un gruppo di maschi, ubriachi, testosterone, liberi, eccetera, che fanno le porcate che fanno i maschi che facevano in Sicilia e che forse fanno ancora in Sicilia. Lei conosce bene certe foto, ci sono delle foto clamorose della Sicilia. Che fanno un po' ovunque. La foto clamorosa della Sicilia. A Genova li facevano peggio, dai. Sporcaccioni, siciliani sporcaccioni. E come mai? A Genova facevano anche di peggio. Ma lascia perdere a Genova, perché Panella di Genova. Siete degli eravate e forse siete ancora, dice Carlo Panella, degli sporcaccioni col testosterone. C'era in tutta Italia, diciamo, non è che il delitto d'onore, non è che lo facevamo di più giù nel sud, no, però c'era dappertutto. Andavamo anche al nord, poi non... Vabbè, insomma, quindi sporcaccioni, vabbè, questo dice Panella. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare al traffico. Voglio sentire poi Adinolfi su questa storia di Colonia, perché oggi ci sono, c'è chi dice temiamo il terrorismo sessuale. Questa è la nuova accusa nei confronti di alcuni migranti. Tra poco. Con Alino Milan e il fiorentino, il traffico divino. Alessà, ma questo mette il canoverai sulla bolletta, no? Ma questo lo sa che in alcuni paesi della provincia di Roma la RAI non si vede in televisione e la radio non si sente? Allora chi dobbiamo pagare? A Mediaset! Ciao Alessà, faglielo sapere al compariello Rienzo. Ciao Alessà, buonanotte! Signor Milan, perché non fai tu cine da Milano? Così almeno dai un po' di sorriso, forse potresti pure che fai sparire per sempre la nebbia, capito? Tu sei magico, sei miracoloso, sei sorridente, capisci? Alla fine i milanesi, capisci, ti tengono a vita. Oh, senti Vila, io mi sono rotto le palle di mandarti dei messaggi e la tua redazione non li manda mai in onda. Brutto. Ah, grandissimo Alessandro Vila, buongiorno, ciao, sono il tuo grandissimo amico Giampiero e ti volevo dire che ho delle idee sul tuo futuro giornalistico. Chiami quando vuoi, grandissimo, ciao, ciao, chiama sempre quando vuoi. Tu sei un grande, ricordatelo. Vaffanculo, va. Te faccio fare pubblicità all'Intrepido, te faccio fare Armonello, ciao grandissimo, ciao. Beh, non male, Marione, hai qualcosa da dire? Sì, insomma, continua la sagra degli psicopatici. No, ma perché? Ma quello che non sente la radio, come fa a chiamarti? Non si sente, cioè, non ho capito. La RAI, forse, eccola là. Pubblico di merda! Serio. Pubblico di merda! Allora, caro Marione, tra l'altro ci scrive Mara, dice sono con Adinolfi, grande, vabbè, quindi Mara, se vuoi ti do il numero di telefono, poi hai trovato un'altra che viene al Family Day. C'entra qualcuno, butta l'occhio, insomma, fidati. Vabbè, insomma, intanto io se raccattiamo anche altre persone non ti fa dispiacere, no? No. Poi ci scrive Remo, te lo ricordi Remo dalle Seychelles? 32 gradi, 87% di umidità, è pronta la carbonara per Adinolfi. Quando... Grande Remo, grande. Saluto a Remo. Che cavolo si sente Radio 24 dalle Seychelles? Radio Seychelles, no? Ma che Radio Seychelles? Ma pensa che noia terribile, insomma, invece ci ascolta da lì. Vabbè, caro Marione, allora che succede? Tu sei un po' inquietato da questo terrorismo sessuale in arrivo? Ci sono i migranti. Sono inquietato dal terrorismo in arrivo, ovviamente. Insomma, poi dopo mi pongo il problema che esiste di una presenza che non è una presenza minimale. In Italia se noi abbiamo una condizione diversa per tante ragioni, perché il turismo è molto più diluito, in alcuni contesti dove è concentrato le questioni possono essere seriamente problematiche. Si è visto a Colonia, si vede nelle periferie francesi, si vede che insomma produce violenza, e questo è qualcosa da tenere evidentemente sotto controllo. Credo ci sia anche una regia sistematica intorno agli episodi come Colonia, e quindi tutto questo sicuramente deve tenerci allertati. Non è una ci insidiano le donne, non ci insidiano le donne, organizzano sistematicamente un sistema di raping che è una modalità per insidiare. Questo è qualcosa che ci insidiano le donne, un po' come i siciliani ci insidiano, no? Allora, la radice islamica, ricordiamo che è esatto, esatto. Ma Vincino, forse questo sono state le dominazioni islamiche. Le dominazioni, da 200-300 anni si stava alla grande, diciamo. Poi non è che quando arriva, no, veramente dal 700 sino al 900. È da lì forse che, che i siciliani, come ha detto Panella, hanno imparato evidentemente. Poi arrivarono i vichinghi con i loro costumi molto avanzati, i normanni, E quindi tutto a posto, tutto a posto, tutto così. A posto. Va bene, allora, voi avete capito chi vi governerà lì a Roma? Perché Berlusconi pensa a Bertolaso. Bertolaso, sì, beh, l'hai sentita adesso, non far finta di quello di cadere dal pero. E Marchini, che gli fanno fare Marchini? Ma Marchini, ma no, dai, Bertolaso, ma dai, Bertolaso, 48 ore che circola questo nome, lo sai bene, no? Quindi avremo una candidatura Bertolaso, Marchini si candida perché si candida, insomma, inevitabilmente. Sì. Giachetti, ho capito. Giachetti? Grande Giachetti, sono per Giachetti. Ma perché? Perché è un radicale, in fondo, perché è un radicale. È l'uomo più onesto dentro il raccordo anulare che c'è a Roma, poi non so se quant'è però è così. Ma perché poi fuori dal raccordo anulare cosa succede? Fuori dal che succede? Noi vediamo dentro il raccordo, perché poi... Vabbè. Poi c'è il 5 Stelle, Marione. Poi c'è il 5 Stelle. Che 5 Stelle? Non c'è il 5 Stelle ancora. Dai. Mamma mia, non si è capito. Si innervosisce subito appena nomini il 5 Stelle. No, non mi innervosisco, ma fermati. C'è il 5 Stelle. Fai finire, Marione. C'è il 5 Stelle a Milano. Quello là, chi sarà il 5 Stelle? Dai, scherziamo. Vabbè. Partito oscuro. Il Marione, 5 chi vince a Roma? Fai il tuo pronostico. Se vuoi, questa cosa di Bertolaso mette in difficoltà Marchini, quindi il centrodestra si gioca molto delle chance. Potrebbe essere un ballottaggio PD 5 Stelle, in quel caso io vedo 5 Stelle favorito, a Roma il PD non... Ho capito, però effettivamente la singolarità, come dice Vincino, è dire Giachetti è un nome, Bertolaso è un nome, poi c'è il 5 Stelle, no? Devono ancora capire, lì si riuniscono alla Casaleggio Associati e devono decidere chi sarà il Pinco Pallino oppure uno famoso, non lo so. Chissà se il sindaco Pinco Pallino poi non è meglio dei sindaci fatti con i nomi e cognomi. Non lo sai mai, non lo sai, ma infatti a Roma abbiamo fatto sindaci con i nomi e cognomi, insomma, non tutti bravi. Cioè, Adinolfi per Pinco Pallino. Adinolfi vota Pinco Pallino. Ma tu, Marione, chi voterai? Tanto del 5 Stelle, sinceramente non lo so. Grazie a Dio a Roma c'è una cosa: quando c'è le donne candidate di sindaco ce ne sono almeno 16-17. Io sceglierò uno marginalissimo. Cioè, perché Giachetti è un radicale, dai, lui sarà per le unioni civili, per la canna libera, ho sentito qualche parte, però ha dichiarato che lui non farebbe un matrimonio omosessuale, non celebrerebbe come Ignazio Marino un matrimonio. Capito, sta già cercando i voti dei cattolici, Vincino. Funziona così, c'era anche la fase in cui Rutelli e la Palombelli erano tutti con lui, adesso la Palombelli fa gli spot per gli onori civili. Addirittura hai visto, Vincino, pur di sta facendo la lista, lui al contrario, la lista di proscrizione al contrario. Mamma mia, è vero, hai fatto una piccola lista, hai fatto una listina, la piccola listina, hai fatto un po' una listina di proscrizione. Ma come, ammazza quanto siete per malore, quello 35 va bene, te ne faccio uno io, no, è il contesto, come direbbe è il contesto. A Radio 24 si può tutto, a Radio 24 si può tutto. Va bene, Vincino, sai che vi lascio con l'ultima notizia. Sai che la Boldrini è andata a farsi benedire? No, nel senso vero, cioè ha portato il gatto alla benedizione dei gatti, però si è fatta benedire anche lei, in questo senso. La Bolivia. Oh, yeah. non ti ispira? No, ma l'angoscia, metti sta cosa qua così. Adesso t'angoscia. Continua a farsi benedire e dico, vabbè, così, non lo so. No, l'ho detto apposta. L'hai detto apposta, ho capito. Vuoi dire una cosa sul Movimento 5 Stelle? L'abbiamo già detta. In 7 secondi, basta. L'abbiamo già detta. Che poi ti vogliono. No, al sindaco Pinco Pallino. No, al sindaco Pinco Pallino, va bene. Assolutamente. Vi devo salutare, caro Vincino, caro Mariona Di Nolfi. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Forza cari amici, che la 142esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata, è ben iniziata. E allora siamo qui con voi a raccontarvi cosa raccontano i giornali, a parlare dei temi che approfondiremo dopo. Per chi c'era da prima alle 6.30 avete ascoltato, altrimenti debosciatelli miei ben arrivati qui all'ascolto. E siamo pronti, allora andiamo a sfogliare questi quotidiani. Lunedì 18 gennaio, come accade di lunedì, i quotidiani si sbizzarriscono con le aperture più diverse. Il Sole 24 Ore apre sul 7.30. Per il 7.30 precompilato parte la caccia ai dati. Il contribuente dovrà verificare gli importi indicati dal fisco. Poi Corriere e La Stampa aprono sulla visita del Papa in sinagoga. Mai violenza in nome di Dio, questo è il titolo del Corriere della Sera. Mentre La Stampa, Papa Francesco nella sinagoga, incompatibili fede e violenza. Repubblica invece ha una notizia importante sulla questione del dibattito sulle unioni civili. Unioni civili, i dubbi del Colle, pronte modifiche. Il governo pensa a emendamenti perché dal Quirinale si è fatto notare che c'è il rischio di equiparazioni tra le coppie di fatto e i matrimoni. Per il Messaggero invece svolta fisco, cambiano i controlli, in arrivo la riforma delle agenzie, verifiche meno invasive, più ricorsi al web. Il Giornale titola invece emergenza sociale, i professionisti sono i nuovi poveri. Ingegneri, commercialisti, architetti con la crisi hanno perso fino al 35% del reddito. 8.000 avvocati hanno cambiato mestiere. La guerra all'Europa era finta, è invece il titolo di apertura del Fatto Quotidiano tra Renzi e Juncker. Libero invece apre su, ed è tre giorni che Libero ha aperto questo fronte, la fabbrica dei dossier dell'amico di papà Boschi. Giacomo Amadori prosegue nella sua inchiesta sulla storia di questo sardo Valeriano Mureddu, sodale di Carboni, quello della P3, anche lui Mureddu per sua stessa missione, massone e amico del papà di Renzi. Allora, però voglio partire da altre notizie come quella che Sergio Rizzo rispolvera andando a raccogliere la testimonianza, come ha fatto anche il nostro Oscar Giannino, di Antonino Fiumefreddo. Chi è Antonino Fiumefreddo? È colui che gestisce Riscossione Sicilia, cioè l'equivalente dell'Agenzia delle Entrate in Sicilia dove c'è l'autonomia, e che ha il compito di incassare le imposte nell'isola e che ha denunciato qualche tempo fa l'Assemblea regionale siciliana mi ha bocciato a scrutinio segreto la ricapitalizzazione della società, di cui è presidente appunto lui, perché sarà una coincidenza, ma è successo dopo la scoperta che 61 deputati regionali su 90 avevano pendenze con il fisco. Beh, che tra l'altro questa è una notizia clamorosa, 61 dell'Assemblea regionale siciliana, consiglieri regionali, anzi chiamateli deputati se no si offendono, 61 deputati regionali su 90 hanno pendenze con il fisco. E sono soltanto, però, racconta Sergio Rizzo a pagina 21 del Corriere della Sera, sono soltanto una parte degli almeno 160 politici locali nelle stesse condizioni, parlamentari, assessori, ex consiglieri, sindaci, c'è di tutto. Nessuno chiedeva i soldi e forse qualcuno, quando è successo, qualcuno si è arrabbiato. Non li chiedevano a loro né a tantissimi altri. Basti dire che dei 5,7 miliardi di ruoli riscuotibili in Sicilia si incassano 480 milioni. Cioè, pensate, 5,7 miliardi riscuotibili si incassano 480 milioni. Paga solo l'8%. Ecco perché Riscossione Sicilia, società regionale omologa di Equitalia, fa l'esattore perennemente in perdita, fino a 14 milioni di buco del 2014. Per non parlare dei costi: a Catania 72.000 euro al mese per l'affitto della sede, a Siracusa 35.000, a Ragusa 30.000, a Palermo la società possiede un immobile di 9 piani, eppure spendeva per affitti 500.000 di euro l'anno. Quando Antonino Fiumefreddo è arrivato, ha trovato 702 dipendenti e 887 avvocati esterni. Azzerare tutto questo non è stato facile, ma da maggio a dicembre hanno sequestrato 3.200 auto, 189 in tre mesi, 33 Ferrari, 119 Porsche, 49 Jaguar, 17 Maserati, 2 Rolls Royce, 3 Cadillac, 1 Aston Martin e 4 Hummer. E in più hanno sequestrato un jet privato da 8 milioni intestato alla proprietaria di un bar di Catania. Poi dicono che l'evasione fiscale non è il primo problema in Italia. A Catania il carico maggiore spetta una sconosciuta signora, Rosaria Ferlito, che dovrebbe dare a Riscossione Sicilia 85,7 milioni di euro. A Trapani il signor Silvano Lombardo dovrebbe dare 168 milioni di euro. Sono cifre che a leggerle, com'era la battuta di Beppe Grillo, a me queste, quando io devo 10.000 lire mi dormono sullo zerbino, ecco, più o meno. No, Benigni, chi era che faceva questa battuta? Benigni forse, no? Benigni, eccola qua, la Sicilia delle Porsche e delle Ferrari con 23 miliardi che sfuggono al fisco, l'8% paga, l'agenzia regionale di riscossione incassa solo questa cifra e alè. Però auto di lusso, jet alla proprietaria del bar e debiti per il fisco. Quanto hai di debito? 168 milioni di euro. Beh, ma insomma, sì, ormai fa ridere perché... Beh, bene, altre cifre, ma altre cifre che sono riguardano un altro tema, le ho trovate sul Fatto Quotidiano, ma hanno colpito anche queste, riguardano il cyberbullismo. Attenzione, cari genitori che state portando magari i vostri figli, soprattutto adolescenti, tra i 14 e i 17 anni, a scuola. Virginia Della Sala, sul Fatto Quotidiano, scrive una pagina molto interessante, appunto, sul cyberbullismo. In Italia, secondo l'Istat, il 5,9% delle denunce per molesti e abusi riguarda episodi vissuti sul web e social network. 2 ragazzi su 3 credono sia un fenomeno destinato ad allargarsi. Aumenta, insomma, il cyberbullismo, ma non c'è ancora una legge. Gli americani definiscono il bullismo come l'epidemia silenziosa che internet ha reso ancora più nascosta. Secondo l'ultimo rapporto Istat, scrive il Fatto, tra i ragazzi che usano cellulare e internet il 5,9% ha denunciato di aver subito ripetutamente azioni vessatorie tramite SMS, mail, chat o social network. Vittime più di tutti le ragazze, il 7,1% contro il 4,6% dei ragazzi. Si parla di statistiche che riguardano soprattutto adolescenti di età tra i 14 e i 17 anni. Più di 9 adolescenti su 10 usano un telefono cellulare. La metà usa un personal computer, 7 su 10 usano internet. E le ragazze, quelle tra gli 11 e i 17 anni, sono le più coinvolte. Il 7,1%, come detto, sono state vittime di vessazioni continue. Infine, 2 ragazzi su 3 ritengono che il cyberbullismo sia un fenomeno in crescita. Dati che non tengono conto di chi non denuncia, perché ovviamente ci sono anche molti che subiscono e non denunciano. Poi ci sono i consigli su come tutelarsi, social network, insomma una pagina interessante, detto che la legge non c'è in Italia, a pagina 7 del Fatto Quotidiano la trovate. Mentre Io non lo so se ci state ascoltando dal Molise o dalle zone limitrofe, dalle regioni, nelle zone che confinano, ma in Molise, come raccontano i giornali, Repubblica dedica una pagina, La Stampa dedica una pagina, c'è uno sciame sismico che sta preoccupando moltissimo la popolazione. Il presidente della regione Molise ha chiesto la chiusura delle scuole. Decine sono gli allarmi gli ultimi tre giorni con lo sciame sismico che fa paura, c'è chi inizia a dormire fuori casa. Vicino all'epicentro è considerato, in un paese, Baranello è considerato il più vicino all'epicentro. È già stato allestito un centro di accoglienza al campo sportivo. Ovviamente c'è un'intervista al sismologo Alberto Michelini, intervistato da Repubblica, pagina 20, che dice: è molto raro che tante scosse siano il presagio di un cataclisma. Uno sciame aumenta le probabilità di un grande sisma? Non sappiamo dirlo, è la premessa del sismologo. Ci sono grandi eventi non preceduti da una sequenza, sequenze che finiscono senza grandi eventi e sequenze che fanno da preludio a un terremoto forte. Purtroppo non abbiamo elementi per fare previsioni. Sappiamo che l'Appennino si sta dilatando, sta cioè sprofondando, facendo crescere la distanza tra Tirreno e Adriatico. Questo crea un processo che chiamiamo estensionale, in cui le faglie, allontanandosi, potrebbero rompersi e causare un terremoto. Il meccanismo in questo senso è simile a quello dell'Aquila e in Molise non escludiamo un sisma forte in un periodo dell'ordine dei 50 anni, ma non sappiamo assolutamente dire quando. Insomma, tutte queste precisazioni mi sembrano doverose, visto quello che è successo. Non è un paragone, non sto abitanti del Molise dicendo ecco, stai paragonando all'Aquila, ma visto che quello che è successo all'Aquila, le polemiche, i processi sui sismologi, va bene dare retta alla Protezione Civile e ascoltare, poi non farsi prendere dal panico. Certamente però molti degli abitanti del Molise un po' il panico lo stanno provando, come racconta Repubblica e come racconta La Stampa in una pagina. Eccoci qui, siamo al premio Mani sul Volante. Se state guidando, l'articolo che mi fa zare della giornata è proprio questo. Per la verità non è niente di nuovo, ma Paolo Baroni della Stampa si è preso la briga di andare a calcolare gli stipendi dei governatori delle regioni per vedere chi si è mantenuto nelle regioni lo stipendio massimo, quello che è il massimale, cioè 13.800 euro lordi omnicomprensivi, e sono 9 i governatori su 20 che applicano questo tetto massimo. Per la precisione, Zaia in Veneto, Zingaretti in Lazio, De Luca in Campania, Emiliano in Puglia, Crocetta in Sicilia, Oliverio in Calabria e Pittella in Basilicata. Comunque, da qui si parte per raccontare la solita questione: la casta delle regioni, pochi tagli e stipendi ai massimi. Paolo Baroni racconta: 5.000 euro basta e avanza, aveva proclamato l'anno passato il presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. La sua mossa sembrava il preludio di una nuova importante sforbiciata generale ai costi della politica locale. In realtà sono stati in pochi a seguirlo, solo la regione Piemonte è scesa a quota 5.000, poi ci sono le indennità e i rimborsi, si intende. In tutte le altre regioni invece presidenti, vicepresidenti, assessori e consiglieri intascano molto di più, chi anche 3.000 euro in più dei 5.000, visto che una larga maggioranza di loro sfrutta in pieno il tetto massimo di 13.800 euro lordi fissato da una legge del 2012. Eccolo qui, tutti i costi, tutti gli stipendi. Paolo Baroni della casta delle regioni racconta sulla Stampa: 13.800 euro lordi. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, il posto fisso dell'informazione. Il posto fisso, vi giuro, cari ascoltatori, che questa non è fatta apposta, cioè l'ha messa Peter Bescapè, Lorenzo Nespoli, senza sapere che io sarei ripartito proprio dai furbetti del posto fisso, o meglio i dipendenti statali, ma anche dei, i privati, in questo caso il posto fisso. Eccolo qua, ripartiamo proprio da qui, perché c'è un dibattito, a mio modo di vedere, abbastanza surreale. Io lo tradurrei così. In Italia adesso si sta discutendo di questo, ma è giusto cacciare uno che truffa? Cioè, perché questo è, questa è la questione, cioè si sta dibattendo se e come accelerare il fatto di poter allontanare i dipendenti pubblici che truffano. Ma non dovrebbe essere un dibattito che inizia e finisce in due minuti? Rubi, vai via. Truffi, vengo allontanato. Sbagli, paghi. No, invece dibattitone. E non solo. E mercoledì approda in Consiglio dei Ministri tutta la riforma, ben più complicata, la cosiddetta riforma Madia sulla pubblica amministrazione, che prevede tra l'altro la possibilità di mandare via in 48 ore quelli che, non so, quelli del cartellino facile, quelli che truffano lo Stato, i dipendenti pubblici. Eppure anche qui ci sono già le leggi per mandarli via e non ce la fanno. Però adesso succederà in 48 ore, poi in 48 minuti e poi non succederà nulla, come succede spesso in Italia. Comunque l'Unità dedica due pagine a questo: i furbetti licenziati a tutela degli onesti. Questa è la promessa del ministro Madia. Ripeto, ci sono già le leggi, potrebbero farlo adesso senza riforme. Però Federica Fantozzi intervista sempre sull'Unità, pagina 7, il giuslavorista Ichino, Pietro Ichino, che in effetti dice: mi chiedo soltanto perché non applicare semplicemente l'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, che prevede la contestazione della mancanza, se necessario, con l'immediata sospensione cautelare. Poi 5 giorni per le giustificazioni dell'incolpato e poi l'irrogazione del provvedimento. Nel settore privato funziona benissimo, perché non applicarlo anche nel pubblico? C'è davvero bisogno di una norma diversa o piuttosto chiedersi perché quella esistente non viene applicata? Ecco, in una domanda semplice, domanda retorica di Ichino, viene smontato più o meno tutto. Comunque Ichino continua: è importante, certo, io l'ho definito una norma spot, le norme come queste possono certo servire per superare l'emergenza, ma è importante mettere a fuoco e risolvere il problema della dirigenza pubblica che non esercita le proprie prerogative manageriali, abdica in favore del potere giudiziario. Le sembra normale che il sindaco di Sanremo debba rivolgersi alla polizia per stanare gli assenteisti negli uffici del comune? E comunque ancora, dice Ichino, nel settore privato il tasso dell'assenza dei dipendenti si colloca mediamente tra il 4 e il 5%. Nel settore pubblico si va dal 12 al 15%. Ai dirigenti si deve imporre l'obiettivo di ridurre il tasso delle assenze al livello del settore privato. Per questo è importante colpire i truffatori, ma anche e soprattutto motivare meglio tutti gli altri. Col dirigente si potrebbe fare questo discorso: trova tu il modo migliore, ma se entro un anno non hai dimezzato il tasso di assenze, vieni rimosso. Io dico di una chiarezza, di una semplicità, semplicità no, perché in Italia nulla è semplice, ma di una chiarezza, di una di un'esposizione così limpida e ovvia che non ci sarebbe bisogno di nient'altro. L'intervista di Pietro Ichino sull'Unità. A proposito di soldi, guardate che sia Mario Sensini sul Corriere della Sera, sia Claudia Marin sul Giorno iniziano a dire che servono un po' di soldi, perché il dibattito con l'Unione Europea è sulla questione della flessibilità. Arriverà o no la flessibilità? E questo fa ballare 16-17, chi dice, come il Corriere della Sera, 20 miliardi. E dunque c'è questo appello già buttato lì in avanti: dal 2017 bisognerà trovare almeno 20 miliardi. Le mosse del governo. Palazzo Chigi dice: non c'è alcuna proposta per modificare il fiscal compact, servono, forse serviranno 20 miliardi. Io ve lo dico già, i due urini sono a disposizione, di più, per favore, lor signori, non chiedetemi perché. Non so più dove grattare il barile. Comunque, Oh, sulla politica, oggi c'è il grande dibattito sempre sulle unioni civili, però oggi c'è almeno una novità in questo. Repubblica la mette con ampio risalto in prima pagina, il dibattito sulle unioni civili, mentre i vescovi appoggiano il Family Day, che sarà il 30 gennaio. La novità di Repubblica è questa: i dubbi del Colle. È un'importante pagina di Claudio Tito a pagina 2, ed è questo: i costituenti tennero presente la nozione di matrimonio che stabiliva e tuttora stabilisce che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. Questa frase negli ultimi giorni sta rimbombando nelle sale dei palazzi della politica. E perché? Perché in molti si stanno chiedendo quanto potrà incidere nell'esame della nuova legge sulle unioni civili. Perché a pronunciare quella frase non è un oscuro senatore, ma è la Corte Costituzionale nella sentenza emessa nell'aprile 2010. E allora, in queste ore, i contatti informali tra il governo e il Quirinale sono stati intensi. Diversi membri del governo hanno chiesto una valutazione alla Presidenza della Repubblica e dal Colle la risposta è stata precisa. Il riferimento da prendere è quella sentenza della Corte Costituzionale. Insomma, il timore è questo: che così come rimane il testo Cirinnà, soprattutto agli articoli 2 e 3 che rinviano alla disciplina del matrimonio, potrebbe costituire un paragone o una somiglianza tra le unioni civili e il matrimonio, e dunque, in base a questa sentenza della Corte Costituzionale e dopo un ricorso, essere giudicati incostituzionali. Ecco perché il governo è pronto a modifiche e a emendamenti per evitare equiparazioni qualsivoglia col matrimonio vietate dalla Consulta e dunque far affossare la legge da un eventuale ricorso. Questa è la novità più importante riguardo alle unioni civili. Ma siamo all'ora precisa, l'ora scandita da Radio 24, quella di Mauro Meazza. Anche se, caro Maurino, per il secondo lunedì consecutivo vorrei ripartire da venerdì scorso. Quando... Con chi gioca l'Inter? Senti, gioca, qui. Mi pare, in quel di Bergamo. Ah, faccio un pronostico. Fai un pronostico. 1-1. Caro Maurino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, che buon devo lunedì. Dire? Che devo Vorrei dire? Vorrei congratularmi con Peter per il sagace taglio, sì. perché nella poi realtà tu... dei fatti tu hai il pronostico, l'hai fatto sull'1-0 prima e poi no, l'hai corretto No, malandrino, no. Io ho detto, sì. Ho detto 1-1 e tu no. Poi mi hai detto, no, tu devi dire 1-0, io, ah, allora dico 1-0, e no, è andata così. Vorrei congratularmi comunque con Peter sempre. Perché vabbè, è di una professionalità e di una abilità anche a pescare questi intrecci sonori. Porta il tiro, esatto. Quel bellissimo pacca, porta in vantaggio il Milan. Vabbè, dai. Ecco, questo magari teniamolo, Alessandro. Sì, teniamocelo da parte, teniamocelo da conto. Allora, sarà una settimanona, lo sai? Sì, una settimana sì, decisiva. Come no? La riforma Madia, sì. Oltre alla riforma Madia, molte altre cose si addensano sul tuo capo e anche sul nostro, mm-hmm. E lo scopri leggendo oggi il Sole 24 Ore. Allora, ad esempio, il 22, cioè il venerdì, cominciano le iscrizioni online, mm-hmm. Per la scuola. Allora, perché si possono iscrivere i figli a scuola? Quest'anno c'è una novità importante, si può anche vedere la autovalutazione delle scuole medesime. Quindi, leggi sul Sole 24 Ore, come ti spiega Francesca Barbieri, cosa cambia e come attrezzarsi per le iscrizioni online. Oh, poi, attenzione, il 20, cioè mercoledì, hai preso l'agenda? Stai sì, segnando? Infatti sono già mercoledì, tutto bravo, segna, vai a mercoledì 20 con il Sole 24 Ore, la guida alle pensioni. Perché mm-hmm. ogni anno noi si toccaccia sempre un po' le pensioni, no? Una rigoletta di qua, un ritardino di là, un'età pensionabile che si alza e così via. E allora ti spieghiamo tutto con un libretto che verrà diffuso con il Sole 24 Ore. Ottimo. Oh, poi attenzione, perché incombe anche la riforma dei fallimenti, potrebbe essere sempre venerdì prossimo, staremo a vedere. E poi non è proprio per questa settimana, ma diciamo cominciamo spiritualmente a prepararci, il 730 precomplicato, precompilato. No, questo lapsus non è male, il 730 precomplicato. No, ma è lì che, come dire, la lingua batte dove il dato duole, perché come spieghiamo sul Sole 24 Ore, ci sarà un po' da ricontrollare questi numeri che ci arriveranno dalle entrate, che, per le quali si comincia la raccolta proprio questa in questi se la rivendono l'agenzia delle entrate, sai, 7.30 è complicato. Penso che lo sa, forse l'hanno forgiata proprio loro questa battuta, può darsi. Allora, poi, ravvedetevi tu e anche quell'altro animale di Peter Bescatè, ravvedetevi con il ravvedimento, se non avete pagato l'IMU e la TASI, ad esempio, che da quest'anno è diventato ancora più conveniente. Come l'ho scoperto? Leggendo l'esperto, risponde, allegato oggi al Sole 24 Ore, un inserto che tu dovresti sempre leggere, non dico religiosamente, ma copiosamente, con enormi attributi, ma quasi religiosamente, diciamo con la sufficiente attenzione. Ci sarebbe poi anche da ragionare, sempre per questa settimana, sulla riforma degli insegnamenti a scuola. Torniamo a parlare di scuola, perché venerdì, ancora hai segnato, ce l'hai la pagina di venerdì? Sì. La pagina di venerdì? Venerdì gnocchi ho messo. Ma no, giovedì gnocchi, venerdì Consiglio dei Ministri. Venerdì Consiglio dei Ministri, dove dovrebbe andare anche la riforma degli insegnamenti, cioè degli ambiti di docenza. Tu hai un certo titolo, cosa puoi insegnare? Cambiamo questi ambiti di docenza. E a questo punto, naturalmente, ci sarà anche una cosina martedì, ma diciamo calcistica, su cui non vorrei essere, come si dice, sfruculiato poi nella giornata di mercoledì, ma non ne voglio parlare adesso. Adesso io mi fermo qui, vi auguro una buona settimana. Traffico! Alessandro Milan, la ha con la canuccia rotta dell'informazione. Oh, ma grandissimo, grandissimo ascoltatore, picciolino. Allora, ci sono ancora notizie sulla possibile nomina di Marco Carrai, imprenditore molto vicino al presidente del Consiglio Renzi, uno dei suoi migliori amici, ad un ruolo che sta facendo molto discutere. Il ruolo potrebbe essere responsabile della sicurezza cibernetica, un ruolo molto importante a Palazzo Chigi. E allora scrive la notizia di un paio di giorni fa, e le polemiche sono ancora attuali. Carrai apre il risico delle nomine. Carlo Bonini racconta in un articolo più interessante, pagina 15 di Repubblica, che l'annuncio del possibile approdo a Palazzo Chigi come responsabile della sicurezza cibernetica di Marco Carrai, imprenditore fiorentino legato da fraterna amicizia al presidente del Consiglio, mette in chiaro avvia l'infernale partita che da almeno due mesi mette in fibrillazione gli apparati della nostra sicurezza nazionale. È il grande gioco che da qui all'estate consegnerà una nuova centralità alla nostra sicurezza cibernetica. Infatti scadono le nomine e i rinnovi ci vogliono del nuovo capo della polizia. Alessandro Pansa raggiungerà l'età pensionabile, il nuovo comandante generale della Guardia di Finanza a maggio, il nuovo direttore del servizio interno col suo direttore che ha già superato l'età della pensione, i nuovi capi di Stato Maggiore Aeronautica e Marina di Militare, e ancora scadrà, sempre alla vigilia dell'estate, il mandato quadriennale del direttore del DIS, cioè l'organo di coordinamento delle nostre due agenzie di intelligence. Dunque, ecco la grande partita raccontata da Repubblica. Tutte queste nomine cruciali, da qui prima dell'estate, con anche le polemiche legate a Marco Carrai, tanto che Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, racconta oggi è proprio il caso Carrai. Il governo spieghi perché assegna un incarico così delicato a un privato senza titoli se non la vicinanza al premier. Questa è la questione che pone Libero, con si ritira fuori anche la questione di quando Matteo Renzi, quando era sindaco a Firenze, ha vissuto per un po' di tempo in una casa messa a disposizione da Marco Carrai. Questo per quel che riguarda la vicenda di questa nomina. Tra l'altro c'è anche la questione delle banche, ancora in primo piano, Banca Etruria, perché sempre Libero da qualche giorno ha tirato fuori la storia di questo signore sardo che è un po' ambiguo, racconta Libero nei suoi movimenti, nei suoi lavori, e che è un massone dichiarato. Si tratta di Valeriano Mureddu, che ha avuto un ruolo in Banca Etruria, nel senso che ha incontrato il papà del ministro Maria Elena Boschi e gli ha suggerito alcuni nomi che poi non si sono concretizzati, sempre per Banca Etruria. Valeriano Mureddu, oggi Libero torna a scrivere di lui, la fabbrica dei dossier dell'amico di papà Boschi. Ieri era anche intervistato da Libero, un personaggio quantomeno strano nelle dichiarazioni. Tra l'altro finisce in questo tritacarne anche il banchiere Fabio Arpe, numero uno di Arpe Group, che oggi viene intervistato dal Corriere della Sera da Fabrizio Caccia e dice: scusate tanto, ma è un po' come se mi comprassi un Audi e finissi implicato nel Dieselgate. Rendo l'idea? Ma che c'entro io con Banca Etruria e Flavio Carboni? Io ho fatto solo un colloquio di lavoro. E dunque, allora, un po' esterrefatto, Fabio Arpe, 53 anni, 6 volte indagato e 6 volte archiviato dalla magistratura, oggi amministratore delegato di Arpe Group, parla e dice: sì, ho letto la questione, la vicenda mi pare kafkiana, sono molto imbarazzato da questo cancan, perché credo ci siano di mezzo questioni politiche. Insomma, mi sembra di capire l'obiettivo: collegare Pierluigi Boschi e dunque sua figlia, il ministro Maria Elena, e il premier a certi ambienti particolari, no? Carboni, quel Mareddu, Valeriano Mureddu, caro Arpe, imprenditore massone, amico di Carboni, anche lui ha fatto il suo nome. Appunto, quegli ambienti, la vicenda mi stupisce molto. E poi Fabio Arpe racconta del suo colloquio con il papà della Boschi, di quando si sono incontrati: ho solo fatto un colloquio di lavoro per savoir-faire, educazione, mi hanno convocato, ho parlato con loro 2 ore, non se n'è fatto nulla, non mi ha neanche fatto un'offerta di lavoro e tutto qui. E poi di Flavio Carboni dice: ma guardate quanti anni ha, 84, io 53, beh, mi pare improbabile perfino il farsi solo una passeggiata insieme, io quel Carboni non l'ho mai visto né incontrato. Allora, ci dobbiamo fermare, ci sono ancora tante notizie, ma come fare? Non c'è tempo. E allora voliamo sulla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi un'intera pagina, Marco Gasperetti, anzi mezza pagina sul Corriere della Sera, per raccontare che c'è e ci sono artisti, intellettuali uniti per una battaglia importantissima, una battaglia fondamentale: il fronte per fermare gli abbattimenti dei cinghiali. Ma chi se ne frega!